non esiste. E quando ti trovano ti fregano, ecco com'è, Robe. Comunque, il mio baracchino, adesso ho l'istruzione dell'Alan 48, addirittura il marchio c'è un adesivo sull'istruzione, l'hanno messo un adesivo metallico CE, per cui anche il baracchino è omologato, quello lì. L'Intec c'è marchiato proprio quello grande, il Multicom, non ho guardato l'altro Intec, già due baracchini sono tutti e due omologati CE, per cui da quel punto di vista sono d'accordo. Come ha detto Claudio, io avevo chiesto, mi ha detto porti l'apparato, mica vengono a casa tua, te lo controllano e ti dicono sì, è a posto. Però come hai detto tu, anche un'assurdità, perché io capisco, se c'ho la 48 due mesi prima del mio, che ancora non c'era la targhettina ed è preciso identico al mio, cos'è, cacchio, devo andare alle poste a Cagliari o dove sia per farmi mettere l'adesivo o una dichiarazione di conformità? Cioè, naturalmente quello che avete detto degli appartamenti, dei palazzi, lo so benissimo, perché già lo so più che bene, già lo so Claudio per quale motivo, e lo saprà anche Natalino e Giulio, per cui sono abbastanza informato. Addirittura vogliono certificazione di cosa, del risparmio energetico, dell'isolamento termico, eccetera eccetera, prima di vendere, se no non puoi fare niente. Sì, infatti loro vogliono la dichiarazione di conformità, poi l'adesivo trova il tempo che trova, passa il tempo che trova, volevo dire. Io di quel baracchino omologato c'ho la dichiarazione di conformità pure, non solo che l'adesivo, infatti non ho buttato la scatola perché c'ho tutti i documenti, se che vengono a controllare non si sa mai. Sai Robè, la differenza qual è? Come ha detto Giulio, che è decaduto, è decaduto quel decreto, è vecchio cabrodo. Quindi deve essere a norma CE, tu non hai una radio a norma CE, perfetto, vai nell'ufficio di competenza e lo fai la richiesta scritta e loro ti mandano la ditta convenzionata con la strumentazione e ti rilascia il certificato di conformità della radio. Ok, e se dovesse venirti un controllo, dice questa radio, ma no, aspetti, c'è il certificato di conformità che mi ha lasciato la ditta che è venuta a fare il controllo della radio. Perfetto, loro ti timbrano quella e si fanno una copia, basta, e tu sei a posto. Natalino, hanno preso la sprovvista perché se non è stupido, si sarebbe preparato, capito? Però è così, non ti preoccupare che è così, ma anche nel cantiere di Alghero, anche nel cantiere di Alghero, prima di tutto questo casino del Covid-19, è successa la stessa cosa, è successa la stessa cosa, un'ispezione sempre dell'ispettorato del lavoro, non di altro, perché girano questi, ed è giusto che giro, quello per la sicurezza, per la sicurezza. Siamo andati a risparmiare, abbiamo fatto una cazzata sulle scarpe antinfortunistiche, non erano a norma CE e ci hanno fatto 260 euro di multa, ok? E quindi abbiamo dovuto ritirare tutte le scarpe del personale e fare arrivare le scarpe antinfortunistiche a norma CE. Tu mi dirai, ma è assurdo, io ti rispondo, è giusto che è così, che è assurdo, perché una scarpa antinfortunistica ti protegge la punta, però loro dicono, se quell'acciaio non è a norma, cioè, quindi non è stata certificata la scarpa, e disgraziatamente ti cade qualcosa sulla scarpa e ti schiaccia il piede, perché quella scarpa non è fatta bene, non è a norma di legge, non è a norma CE. L'infortunio, okay, non ti paga, perché i primi controlli che fanno sono queste cose, quindi anche l'antifortunistica deve essere a norma CE, altrimenti la prendi nel QSO. Vai giù. Sì, ma in effetti è così, in effetti è proprio così. Purtroppo ci sono delle leggi oggi considerate, almeno secondo il mio punto di vista, assurde, perché io adesso mi metto nei panni ad esempio di quei commercianti che hanno tutte quelle apparecchiature, tornando ai baracchini, che non sono marchiate CE. Però tu immaginati quanti baracchini ci sono che non sono omologati eppure permettono di venderle, di vendermi, perché purtroppo il lavoro non si può bloccare, l'economia deve andare avanti. Tu mi dirai, ma come fai? Io devo essere io, ad esempio, cliente, ad interessarmi di comprare uno oggetto che sia conforme alle regole, cioè diversamente non lo posso usare, però questo non significa che non si può vendere, anche se non è marcato c'è. Ecco qual è il problema. Anche quella è un'assurdità grandissima, perché visto e considerato che l'oggetto è ancora in negozio, matematicamente dovrebbe essere già marcato, c'è niente da fare, eppure non è così. C'è un controsenso anche nel fatto delle regole di legge o robe. Purtroppo siamo in Italia, è così. Sì, no, vabbè, in Italia molte volte ci sono regole ridicole. Ne ho sentito uno, adesso mia figlia, adesso vi faccio fare due risate. Mia figlia è per la quinta volta che è stato rinviato l'esame della patente di guida. Prima non so cosa, una volta si era dimenticato l'esaminatore, un'altra volta era malato, l'altra volta hanno dato la precedenza a Olbia perché quell'altro non poteva andare. Alla fine poi, nell'ultimo momento, non hanno preso in carico la documentazione perché si è dimenticato di passarlo al direttore all'altro e non l'ha preso. Poi è uscito il coronavirus, adesso l'ultima novità che è ridicola, per fare l'esame della guida ti fanno andare in un luogo chiuso, diciamo Piazza dei Segni, lo chiudono, ti fanno entrare da solo dentro la macchina e ti danno le direttive, vai dirigi da destra a sinistra, però non sanno che la macchina è solo assicurata, copre con un esaminatore vicino, con l'autista vicino, che ci sono i doppi comandi, per cui se quello si sbatte al muro, ne butta il marciapiede o qualunque cosa, non è coperto l'assicurazione. Quelli che hanno fatto la legge non lo sanno probabilmente, infatti stanno facendo un sacco di macello tutte le confederazioni delle autoscuole, che dice una cosa, dice che ha fatto Paperino, per dirti chi fa la legge molte volte non sa neanche come la realtà delle cose. Quello è ancora peggio, ma c'è riguardo delle autoscuole, è ancora peggio. A quanto sembra stanno decidendo, speriamo che non lo facciano mai, tu ad esempio che hai preso, io dico tu per dire io o qualche altra, per sì, qualsiasi altra persona, abbiamo preso la patente per dire 5 anni fa, va bene? Tu sai benissimo che quando si va alla scuola guida, perlomeno era così, non si pagava l'IVA. Tu cliente, che hai preso la patente 5 anni fa, cioè potresti essere richiamato direttamente dalla scuola guida dove tu hai fatto la scuola per pagare l'IVA degli ultimi 5 anni. Ascolta dove stanno arrivando questa gente, perché me questa è gentaglia in tutti i sensi, per conto mio, io li considero gentaglia, perché non sanno mai come mettere in difficoltà il popolo, è una vergogna, nel vero senso della parola. Speriamo che questa legge non la approvino, però ne hanno parlato abbastanza, io ho letto più volte che sono intenzionati a fare quella legge, prendere l'IVA dal cliente che ha preso la patente 5 anni fa. Ma dico io, ma siamo impazziti o cosa stiamo combinando in questa nazione? Ecco com'è, Robert. Break. Sì, registrata. Sì, ha detto bene Giulio, però non dal cliente, perché io ho un amico carissimo che si occupa di queste cose, gli chiedono all'autoscuola, mica al cliente, io non gliene do di soldi, perché tu mi hai fatto il coso, prima era forfettaria l'IVA, loro risalgono a tutte le persone che hanno fatto l'esame negli ultimi 5 anni, dico, tu hai fatto 50 esami, diciamo 50 persone sono venute nella tua autoscuola, mi paghi l'IVA al 22%, però si sono battuti e hanno detto che quella lì è stata cancellata, quella legge lì e parterà per il futuro. Infatti adesso se andrei a prendere la patente dovrei pagare di media, che poi sarà sempre più, il 22% in più di quanto pagavi prima, perché prima l'IVA la versavano forfettariamente come gli stabilimenti balneari eccetera eccetera, non c'era un numero in base al numero dei coso dei esaminanti o diciamo degli allievi eccetera eccetera. Ma ci sono tante leggi ridicole, perché se tu vai dal barbiere, cosa secondo te la puoi tagliare la barba dal barbiere, Giulio, e poi rispondi e passi al break? La barba dal barbiere, io non lo so se si può tagliare, se c'è una legge anche per quello. Io piuttosto conosco diversi barbieri che barba non te ne fanno più, poi tu vai a farti fare la barba e si rifiutano, fanno solo il taglio, fanno il taglio e anche lo shampoo eccetera, queste cose sì, però non ti fanno la barba. Io un barbiere ce l'ho in famiglia, per così dire, anche se è un ragazzo che è stato adottato da mia nonna, per cui è uno di famiglia, perché da sempre, da piccolino, da quando è nato, è stato adottato da mia nonna, e lui ha più o meno la mia stessa età. E gli sto parlando di Alfonso in via Grazia De Vedda, tanto per fare un esempio, che è conosciutissimo a Sassari. Lui non ti fa la barba, ma non solo quello, tanti altri barbieri non ti fanno la barba. Sì, ma è così, no, comunque, tornando al discorso della patente dell'IVA, io ho letto che deve essere il cliente a dare l'IVA, perché? Perché la scuola guida non l'ha presa, sicché non la deve versare. Ecco qual è il discorso. Poi se cambiano idea, speriamo che non facciano questa cretinata qua, perché questa è proprio una assurdità inutile, cioè inutile per noi, per loro è una cosa validissima perché incassa il governo, ma è una cosa che fa veramente ribrezzo solo a parlarne. Vai Gianni. Buonasera a tutti. Noi lo stesso nei negozi abbiamo dovuto cambiare tutte le appettatrici, malgrado funzionasse, non erano marchiate eccetera, ce le hanno fatte cambiare totalmente, tutte quelle che ci avevamo le abbiamo dovute tutte cambiare. Dani, lo so benissimo, io ti dico solo che abbiamo preso una multa, non adesso, stiamo parlando di 20 anni fa, 18 anni fa, una multa grossa, molto grossa. Lo sapete per quale motivo? Noi abbiamo le cupi, devono essere tutte omologate e c'è, noi eravamo Fiat, autorizzati in Fiat, e la Fiat prendeva le cuffie dalla Svizzera, e c'era il marchio della comunità svizzera, di gran lunga superiore alle cuffie normali che utilizziamo normalmente. Basta metterle indossate e ti rendi conto la differenza di quanto assorbe come costruzione, come tutto. Il marchio svizzero di qualità è a livelli mondiali come restrizioni e tutto, è venuto e ha detto queste cuffie non sono marchiate, ma c'erano queste, ma queste non sono marchiate, c'è, e ci hanno messo una cuffia, considerando che erano di migliore qualità, nel senso attutivano il suono molto di più di quelle, queste ce le dava la Fiat, non stiamo parlando di cose cipitone, la Fiat, eppure abbiamo preso la multa. E purtroppo la legge ha bisogno di quattro imbecilli molte volte che non hanno nessuna cognizione di come funzionano le cose. Il barbiere non ti fa la cosa, la barba, perché deve avere la mascherina, se ti togli la mascherina tu sei fuori legge e lui è fuori legge e gli chiudono l'attività. Tutto questo è il problema. No, a parte la mascherina, io sto parlando già da anni e anni, ci sono barbieri che da anni e anni non ti fanno la barba, forse perché non le conviene a loro, che cosa ne so solo che non fanno la barba. Ecco il discorso. Ciao Gianni intanto. Sì, ma è così. Io una volta sono venuto da me in falegnameria, l'ispettorato del lavoro, vabbè, sono passati tanti anni ormai, e quando hanno visto, dicevo, ci faccia vedere la conformità delle macchine, eccetera, fatto, no, io non ce l'ho. A un certo momento si sono resi conto, ma lei lavora da solo, sì, lavora da solo, fortunatamente gli ho detto così, se no in quel periodo io avevo due ragazze, ma non c'erano in quel momento in falegnameria. Allora non è importante, arrivederci, se ne sono andate. Se no mi avrebbero fatto una bella multa, perché le macchine non erano più di quelle omologate del momento, e io sto parlando addirittura di diversi anni fa, per dirti, no, mi sono salvato perché ho detto che ero solo, io personalmente potevo utilizzare le macchine che volevo, però se ci fosse stato un dipendente, un solo dipendente, sarebbe stato in contravvenzione, come ad esempio se veniva uno a chiedermi un sacco di segatura che io poi la buttavo alla Mondezza, che tra l'altro pagavo ogni due sacchi 5 euro, cioè 5.000 lire per buttare un sacco di Mondezza, di segatura, la dovevo raccogliere io, perché se veniva qualcuno e che il cliente, o meglio quello che mi aveva chiesto la segatura, se la stava raccogliendo lui, mi avrebbero fatto la multa, non poteva entrare a raccogliersi la Mondezza che io le stavo regalando. E basta, leggi assurde veramente. Vai Claudio. Ciao Gianni, buonasera. È successo anche da poco in un'attività commerciale, mi stava dicendo mia figlia proprio l'altro giorno, che hanno regalato a questo signore, sai, con questa pandemia, con questo casino eccetera eccetera, gli hanno regalato della roba giù a Predanieda, e manca a fare la posta, l'ha fermato la Guardia di Finanza e gli ha chiesto lo scontrino, dice a me me l'hanno regalata, venga con noi, te lo porto stato dentro e hanno fatto la multa a chi gliel'ha regalata, è a lui che l'ha ricevuta, cioè allucinante, ma di qua stiamo parlando. Ma quindi non si può fare neanche più una carità, non si può, cioè non si può fare più niente in questa Italia, perché è una cosa assurda. Vabbè, ti sto dicendo, un mio dipendente gli hanno fatto togliere le scarpe, capito? Meno male era di mattina presto, sono venuti verso le 8:30, 9:15. Se no la via Tambainato, con via Gudi Ribedi, cioè gli ha fatto togliere le scarpe per vedere se le scarpe erano omologate. Norma c'è e ci hanno fatto 260 euro di multa, capito? Perché la partita che aveva comprato mio cognato, non suo amico, non era norma c'è, gli aveva dato stracco baratto e quindi non era norma c'è. E siamo stati costretti a, a regolarizzare tutto, oltre a comprare tutto la, l'abbigliamento nuovo, siamo stati costretti anche a pagare la multa. I guanti, quelli che usano i muratori per spostare i blocchetti, quelli in pelle, anche quelli dove c'è norma c'è, tutto dove c'è norma c'è, anche se no ti scelbi dei Gianni. Vai Gianni. Oh, aspetta un attimo Gianni. Oh Clark, quando abbiamo fatto quel lavoro di via Milano, a Villella se ti controllavano sui papiri vuoti, tutti i DPI, se non erano in regola ci avrebbero fregato, perché stavamo lavorando nel comune. E quindi ogni giorno passava l'ingegnere della sicurezza, controllava tutto. Guarda Gianni, tu dopo racconto un episodio, vi fate due risate, anzi due pensieri, avanti. Registrato il brecco un attimo, vai Gianni, Gianni lo riprende, avanti il brecco. Ma se vuoi, se vuoi che io sia sincero, ho capito la metà di quello che hai detto, e quello che hai detto non l'ho capito nemmeno molto bene. Vediamo se c'è qualcuno che ti ha sentito meglio di me. Avanti Claudio, hai sentito questo, questa persona qua? Mi sembra che è lì a Predanieda, boh. Predanieda, no, è Marco, Marco Condor a Porto Torres, e arriva fortissimo qua. Figurati se non lo sento. Ciao Marco, ma anche tu, tu sei lì alla Barai, lì dove c'è il coso, il bar, quello grande, dove c'è l'ancora. E beh, è chiaro, oggi è domenica, è chiaro che c'è gente. Tu sei sceso così a prenderti un caffè, cosa pensavi di entrare e prenderti un caffè? Guarda, ti dico solo, mia figlia ha iniziato lunedì nuovamente, hanno riaperto lunedì, sta facendo dei turni allucinanti, ieri notte è rientrata all'1:30, alle 2:30 di notte, perché hanno chiuso che era 1:30, tra fare pulizia e tutto, è arrivata a casa alle 2:30 di notte, dalle 5 che è uscita del pomeriggio, perché lei va verso le 5, le 6, capito? Quindi immaginati tu, sei proprio capitato in un punto un po' strategico. Vabbè, allora te ne sali e te lo prendi a Sassari il caffè. Vediamo Gianni se riprende. Gianni. Ehi, ciao Marco, mi hai sentito, dai. Dove ti trovi? A Porto Torres, sì. In Ginella? Dici di Vigneno che si rubi gli enoghi, il caffè, assai più, io non lo sento a Marco. C'è Roberto, vero? Ehi, lo sento basso basso a Marco, infatti ho detto era Marco, l'ho riconosciuto, però non si capisce quasi quello che dice. No, stavo raccontando un altro fatto, adesso parlando di regali, là. Devi, anche se tu vieni in officina, lo sai, e ti stringo la ruota, non ti faccio niente, ho col cacciavite, ti devo fare, come si chiama, prestazione non retribuita, ti faccio la fattura a zero. Se ti trova, dice, ma mi ha detto la ruota, niente, non posso fare niente. Ti racconto un fatto, vi racconto anzi, un fatto qua vicino a me, la Lidl, direttore della Lidl, carissimo amico, figlio di un carissimo amico, lì l'hanno fatto la bastardata alle colleghe, anzi le dipendenti, dice veniva sempre questo tipo la sera, quando rimane un po' di frutta la sera, qualche volta alla settimana, lì davano l'avanti per dire quelle mezzo toccate, cose così, lui veniva e se lo prendeva. Una volta è passato dalla cassa, ha preso la cassetta, ha tutta questa roba qui ed è passato dalla cassa. Licenziata in tronco dalla cosa, non hanno voluto sentire storie, lui ha messo avvocato, questo è successo 2 anni fa, non hanno voluto sentire niente, licenziata in tronco, perché una gli ha fatto la soffiata, guarda che questo qua ha fatto passare uno nella casa con la cassetta della frutta, quella mezzo pizzicata, per questioni igieniche, cosa del genere, loro volevano prendere e buttarla via, e questa frutta ce n'era tanta buona, per dire la banana mezzo schiacciata, la pesca appena appena cosa, e questo la usava per mangiarsela, un po' varaccio, licenziata in tronco. Non si può, te l'ho già spiegato, non si può. Devi fare o una fattura o uno scontrino a zero o una bolla, cioè devi fare qua, devi un documento, dove si se ti fermo la guardia di finanza sono cacchi tuoi, è così. Vai Giulio, non, Santiago 5 arrivi da, da Marco, è Marco Condor a Porto Torres. No, proprio non si può dare Claudio. Addirittura non si può dare, e mia figlia ha detto che è successo un casino. Sì, ma è così, lo so, così. Marco mi arrivava Santiago 1, mi arrivava e con la radio stretettata, sicché per quello che non ho capito chi era e quello che diceva. Sì, ma è così, ma se ti sto dicendo addirittura dovevo fare la bolletta per andare a portare il sacco della segatura alla discarica, ma cose dell'altro mondo, cose dell'altro mondo, oppure se mi dovevo spostare per andare a casa di un cliente a fare un lavoro, qualsiasi, una riparazione, una serratura, insomma qualsiasi cosa, dovevo avere la bolletta per il trasporto degli arnesi da lavoro. Cosa, guarda, cosa vuoi che ti dica? Ti faceva venire anche il vomito a sentire, a sentire certe regole. Purtroppo è così, che cosa vuoi che ti dica? Oggi non lo so se, se quello è cambiato, ma suppongo di no proprio, anzi, saranno ancora più intensificate le regole, sicuramente è così. Vai, Robe. Ma ci siamo dimenticati la cosa più importante, tu mi hai regalato quella, quella sega, ti ricordi, eccetera, eccetera. Quella lì, se tu te l'avessi comprata e presa in detrazione, per dire in ammortamento, nell'arco degli anni, me la regali a me, mi dovevi fare emettere una fattura e versare l'IVA, per dire fare una fattura di 50 euro, come che io ti abbia dato 50 euro e ti devi versare l'IVA sui 50 euro. Quella è la cosa più vergognosa di tutti. Io conosco gente che ha dovuto demolire la roba, perché lui aveva chiuso l'attività, demolire e portarla alla Macedo, ma dei torni, attrezzature grosse, apparecchiature di migliaia di euro, perché dice, queste me le vendo quando chiudo, ha fatto la cessata attività e non poteva più fatturare, allora ha dovuto portarle alla Macedo e regalarle a Macedo, per dire se me le dava a me, avrebbe dovuto emettere la fattura, lui non poteva più emettere la fattura, allora ha dovuto rottamarle la Macedo e gli hanno dovuto fare un certificato che sono state rottamate. Tu, te ne dico un'altra ancora più ridicola, guarda, te ne dico ancora un'altra più ridicola, mio fratello che canta, va in giro per dire nei locali a, a fare una serata, tanto per fare un esempio, oppure organizzano una manifestazione come delle volte fanno lì, soprattutto all'ex Smeraldo lì al monte, e per dare quello che si incassa in beneficenza. Questo che si incassa in beneficenza, a parte il fatto che deve pagare la SIAE, intanto per il numero delle canzoni, con tanto di registrazione, quali canzoni devi cantare, eccetera, eccetera, perché se canti altre canzoni e ti pescano, ti fanno una multa. Beh, sulla beneficenza, sull'incasso della beneficenza, ti fanno pagare la tassa, ma è una cosa assurda, veramente, guarda, cose boh. C'è da prendere, non te lo dico frequenza, ma mi hai capito cosa voglio dire, andare a spaccargli la testa a tutti quanti. Purtroppo è così. Vai Gianni. Allora, al filo di un mio collega, a proposito di attrezzi, li hanno fermati i carabinieri, e gli hanno trovato degli attrezzi che lui usava per farsi dei lavoretti perché non stava lavorando, quindi quando gli capitavano lavoretti si arrangiava a fare alcune cose e si erano portato cacciaviti, tutta questa roba, ci aveva una scatola di attrezzi. Beh, lo sai che l'hanno denunciato? Sì, perché le considerano armi improprie, le considerano loro, quali sono delle armi secondo il modo di pensare delle leggi. Purtroppo è così già. Cioè, te lo sto dicendo, dovevo fare il bollettino, la cosa di accompagnamento per trasportare la cassetta o la valigia o il valigione, quello che era, degli attrezzi da lavoro, o una macchinetta, una ballerina, una defilatrice. Dovevo fare la bolletta d'accompagnamento, perché se no ti avrebbero denunciato trovandoti, magari anche la polizia ti fermava per un semplice controllo così, e ti diceva apri il portabagagli, e tu sei costretto a aprirlo, lo devi aprire, e ti trovavano questa cosa nel portabagagli, ti avrebbero denunciato se non avresti dimostrato la bolletta di accompagnamento. Ecco come, come funziona. Avanti Claudio. Quella è una cosa normale, io ho sempre lavorato in cantiere, io quando facevo gli spostamenti da un impianto all'altro sempre avevo il bollettario, quando per dire mi chiamavano e mi dicevano che ci serve la, come si chiama, cacciatrice, ci serve la roba per tagliare l'erba all'impianto di tritare l'agulto. Ce la porti tu per non scendere noi se sei in giro. Certo, io te la portavo e dall'impianto di sorso all'impianto di tritare l'agulto io dovevo la bolla d'accompagnamento. È normale quello. Sfruttamenti di cantiere devi sempre dichiararli, perché se ti fermano per loro sono armi, sono cose. Da dove l'hai presa, dove non l'hai presa, cominciano a fare mille domande, mille cose, è così. Vediamo Marcolino Condor. Marco, mi ascolti? Io sono con circa 10 watt, dai, mi ascolti lo stesso, sì. Ma no, Marco è entrato a prendersi il caffè, dai. Non è che sono armi, sono attrezzi da scazzo per loro. Dopo vi racconto un altro episodio. Adesso, a proposito di beneficenza, Giulio, adesso Giulio, Gianni e compagnia, vi racconto un altro episodio. Noi, quando la nostra società ha fatto la festa dei 50 anni, stiamo parlando nel 2000, abbiamo fatto una lotteria e abbiamo comprato dei premi. Siamo andati da Scarpa, abbiamo preso, c'era il primo premio, un televisore, radio, eccetera, eccetera, compact disc, eccetera. Li abbiamo comprati e pagati. Ci ha fatto la fattura, abbiamo fatto la lotteria, devi andare all'ufficio del registro, registrare tutto quanto, i biglietti, e poi viene il tipo per controllare, il controllore che fa le verifiche della matrice, eccetera, una cosa assurda che neanche vi immaginate. Di questi cosi che noi abbiamo già pagato l'IVA, per dire, costa 120 euro il televisore, abbiamo pagato 20 euro in più che sono riferiti all'IVA, abbiamo dovuto riversare l'IVA sul valore di questo oggetto. Poi ve ne dico un'altra ancora: se tu c'hai una società di calcio o di qualunque sport e ti regalano una serie di magliette regalata senza che non vogliono niente, tu ci metti, ci applichi se vuoi il nome di quella ditta, Falegnameria Giulio o quello che vuoi, o non ci mette niente, devi pagarti il 50% dell'IVA versata su quella, quanto vale quella roba? 120 euro, tu devi pagarti metà dell'IVA versata, cioè ti devi versare metà dell'IVA del valore delle cose, devi fargli un contratto di tutto quello che ricevi, se no ti fanno nuovo, non lo fa, poca gente lo fa, però la finanza adesso sta controllando, sta facendo queste cose qua, le società dilettantistiche che sono forfettarie sino a 110.000 euro, però se tu prendi uno sponsor ti danno o soldi o una serie di maglie o delle sacche, devi pagarti il 50% dell'IVA e lo devi versare a fine anno dopo che l'hai fatto il contratto. E qua ho detto tutto, a che punto siamo arrivati. Però tu puoi evadere all'estero, ti puoi portare i miliardi e fare quello che vuoi, c'è il segreto bancario, non puoi dire niente. Se mi mamma di ladri e noi chiso. E infatti è proprio così, siamo in mano ai ladri, è così, è vero, senza considerare poi anche dalla parte, io poc'anzi ti ho detto, per dire, non so, se fanno una manifestazione canora, uno spettacolo di qualsiasi genere, non ci sono i biglietti, tu entri solamente con un'offerta, dai un'offerta per entrare nel locale e ascoltare lo spettacolo. Da quello spettacolo, da quell'incasso, tu devi pagare le tasse, devi pagare. Purtroppo è così, che cosa lo dica? E non considerare anche che allo Smeraldo prendono il locale in affitto, prendono per fare la serata, per quel locale sai quanto vogliono? 800 euro di affitto, tanto per dire. Adesso tu da una manifestazione che fai per beneficenza senza prendere un soldo, i gruppi che cantano oppure gli artisti che ci lavorano non prendono un soldo perché stanno lavorando per beneficenza, però c'è un incasso, togliene 800 euro di affitto per una serata più tutte le tasse che devi pagare allo Stato, compreso anche la SIAE, perché la SIAE vuole sapere quante canzoni cantano i cantanti e quei numeri di canzoni li devi rispettare, perché se canti altre canzoni e ti trovano che non sono nel registro della serata, sarai multato. Ecco com'è la storia. Questa libertà tu la chiami? Per me questa qui non è libertà, questa è dittatura nel vero senso della parola. Avanti qua. Sì, riprendi Gianni un secondo. Sì, vabbè, lo so, adesso sono molto servili con la legge, boh. Stanno facendo un bel di cavolate, stanno mettendo, addirittura ti controllano i locali, se non sono a norma, ti rifanno fare tutto mattonelle, ti fanno cambiare tutto quanto. Se basta che venga, loro dispongano che non è a norma, ti fanno cambiare tutto, e so di là. Guarda Gianni, dimmi Roberto. L'altro giorno sono venuti un ispettore dell'ispettorato del lavoro a controllare a noi, controllare nel senso era per altre cose, ci siamo fatti una chiacchierata. Tu non hai idea cosa abbiamo dovuto fare per il Covid, io sono molto attento a queste cose, tutto, sono responsabile della sicurezza, del pronto soccorso, evacuazione, diciamo tante cose, sono responsabile. Abbiamo dovuto fare degli aggiornamenti dei dispositivi individuali, dei DP per il coso, per i dipendenti. Prima di entrare li devi misurare la febbre sia all'ingresso che all'uscita dell'officina, deve firmare una dichiarazione dove lui ti sta autorizzando a misurare la cosa, perché sennò ti può denunciare lui se tu non hai la sua autorizzazione firmata. Dopodiché gli devi dare un opuscolo con tutte le informazioni del coronavirus, tutto, di cosa si tratta, cosa deve fare, chi che c'è, eccetera eccetera. Poi la zona di evacuazione devi fare, se per dire viene trovi uno con la febbre a 37, oltre 37 e mezzo, ci siamo dovuti comprare il termometro infrarosso. Deve entrare in quest'area riservata, chiusa, sigillata, nel senso chiusa che non ci possono entrare altri utenti, devi chiamare i soccorsi, avvisare tutto quanto e metterlo in quarantena dentro l'officina. Guarda le cose da sud, e poi hanno fatto i passaggi, perché tu nell'ufficio, non so se l'hai visto, per entrare nell'ufficio c'è, la porta è un metro di porta, quanto è la misura, c'è il lato destro per entrare, il lato sinistro della porta segnato interna per uscire. Dopodiché devi farti fare, hai detto cosa cavolo di cose, vabbè, tutta la cartolonistica, non è, parliamo di tutte le cose che ci vogliono, come ti devi lavare le mani nel bagno e come te le devi disinfettare le mani, perché ci sono due operazioni, lavaggio mani e disinfettazione. Prima di entrare in officina, noi prima di entrare dobbiamo disinfettare tutta l'officina, adesso dobbiamo prendere il coso a vapore per sanificare sanificare l'ambiente, perché c'è sanificare, disinfettare e igienizzare, sono tre cose diverse. Guarda che sto dicendo cose fuori dal mondo, entrate in ufficio, ma qua c'è polvere, questi armadi vanno sempre puliti la mattina e la sera. E tu, quali, che stiamo parlando di un'officina, non stiamo parlando di una sala operatoria, di un laboratorio di odontotecnico, di dentista, dove ci deve essere polvere di lì, non c'è, neanche in officina è tutto aperto, ci devono essere dei ricambi d'aria, infatti non ti basta questo ricambio d'aria, questa porta gigante che c'è davanti. Ti sto dicendo cose, e poi quelli vengono a controllare, si hanno solo letto la legge e non sanno come funzionano le cose nella realtà, per cui è una cosa vergognosa. Infatti l'ho messa anche in difficoltà, lo dovete farvi il corso via internet, fate il cazzo di corso, una volta che io mi leggo la legge e sono informato, mi ho scaricato tutta la legge, lavate ai miei dipendenti, ah si può fare anche qui, se lasciavi dire mi devo fare il corso via internet e pagare altri 50 euro più vivo. Ci mettono in condizioni di non poter lavorare, quando fanno così cominciano a romperti le balle e ti mettono in condizioni poi di non poter fare il tuo lavoro tranquillamente, ecco, perché stai sempre dimmi dimmi, lo so, e anche i clienti quando entrano devono disinfettarsi, no? Assolutamente, cioè all'ingresso, anche dentro lo discorso, noi abbiamo all'ingresso commenti, ci sono tutti i disinfettanti, le salviette eccetera eccetera, poi se entri in ufficio i clienti, a proposito, ti stava sedendo, noi per lavare l'interno abbiamo un sistema meccanico, diciamo, che disinfetta e tutto quanto, ce l'avevamo prima di questa cosa, no, io in questa sedia non mi siedo, cosa vuol dire non si siede? Questa può essere infettata da qualcuno che si è fatto una radiografia, che me lo dice che io non mi prendo le particelle, ma sta scherzando, là gli ho messo quelle fodere in nylon che si mettono quando consegni le macchine per non sporcarli, me le mettono i gommisti, e questo va bene, sì, questo va bene, ecco come che nel dilino il virus non si attacca. Guarda la cosa, là abbiamo preso tutte le sedie, lavate col pulivapore a pressione e con gli igienizzanti, e sapete cosa dicono adesso? Allora, io sono andato dal barbiere, praticamente tra un cliente e l'altro igienizza tutta la sedia, tutto l'ambiente che c'è attorno, in più pulisce i capelli tutti attorno alle poltrone e cose come facevano già da prima, e poi praticamente c'hanno una macchinetta per disinfettare tutti gli arnesi che loro usano, la mette dentro questa macchinetta, dovrebbe essere a raggi ultravioletti, non so, qualche cosa del genere, per disinfettarla. Sì, infatti noi abbiamo preso, credo l'abbia preso ieri o avanti ieri, il vapore, per cosa vapore, mio fratello deve portare quello che usano nelle campagne per disinfettare quella pompa che c'ha il gettito per spruzzare quello, dice l'importante è ci fate vedere che ci avete le cose, pure lui, se le usate possiamo essere tolleranti, al limite dice fammi vedere tutte le operatività come fatte, dobbiamo sentire il profumo del coso, del pulito, meglio questa è un'officina, tutti gli attrezzi vanno disinfettati la mattina prima di entrare e come vanno uscire, detto, ma come cavolo fai? Non dovete stare più di un metro di distanza, meno di un metro da uno là, detto, mi scusi un attimino, se io devo smontare questo sportello, che è pesante, detto, bisogna essere in due, uno svitta e l'altro solleva, siamo attaccati a mezzo, vabbè, ma di lì, non sa, non è che cosa risponde, cioè danno delle indicazioni completamente sbagliate, non sapendo cos'è il virus, io mi sono informato, vabbè lo sapevo già, e che dimensioni ha il virus, non esiste una mascherina in commercio, a meno che non ti metti lo scafandro, quello che utilizziamo per verniciare noi, che ti chiude dalla testa ai piedi, che sei ermetico tutti i guanti, eccetera, così forse non ti entra, perché come tu chi guanti, i guanti ce l'hai già addosso, questa cosa qua, devi entrare in un ambiente a ozono, fatti sterilizzare con l'ozono e forse riesce a... Cacca, dentro l'ospedale saranno preso e ti pare che io in officina non mi prendo, infatti io mascherina andando su in giro, a meno che non sono costretto a mettermelo per entrare non me ne metto perché è una cosa inutile, come è inutile i guanti, tu ti metti i guanti, dici il barbiere c'ha i guanti, e quante volte se li cambia al giorno, e quante volte li tocca le persone, non credo che ogni volta che entra la persona si cambia i guanti lui. Io guarda, l'altro giorno sono andato a fare un bonifico bancario e mi ha dato la penna per compilare il modulo. E io gli ho detto, gli ho fatto questa osservazione, ho detto, no, prendo la mia, e questa può averla toccata tanta gente, e secondo chi la tocca magari ti contagia. E lei ha detto, bella osservazione, lo sa che ha ragione, non ci avevo pensato, mi ha detto, adesso a ognuno chiedo la sua penna, perché se non ce l'ho la penna non gliene do. E non ci avevo pensato, ha fatto proprio una buona osservazione. Sì, sì, anche quello hai fatto una buona osservazione, però secondo l'impiegato che trovi, Gianni, ti dice no, tu firmi con la penna che ti do io, perché tu devi firmare con una penna indelebile, cosa ne so se la tua penna è una di quelle penne che dopo un po' sparisce la tua firma, e questo anche c'è da dire, Gianni. Sono penne digitali. Ha detto bene, ci sono le firme digitali adesso, per cui tu devi entrare con i guanti, c'hai i guanti infetti e li contagi sulla penna digitale. L'ho fatto al tabacchino, non in banca. Vabbè, è uguale, Gianni, è uguale. Se tu devi fare una firma, la firma deve essere sempre leggibile al 100%, in qualsiasi momento, per qualsiasi controllo. Se tu firmi con una penna, che quella penna dopo un'ora, due ore, un giorno, due giorni si cancella la tua firma, non è più una penna regolare, è perché hai trovato quella persona che magari non ha pensato, se no quello ti obbligava a firmare con la sua penna, ti avrebbe detto si metta i guanti, faccia quello che vuole, però devi firmare con quella penna. Anche la sua penna era di quelle normali, Giulio, non era di quelle indelibili, eccetera, eccetera, era una penna normale, una penna bic. Me la stavo dando in mano, io logicamente mi sono disinfettato prima di entrare, però i guanti non ce l'avevo, facevo la mascherina e basta. C'era disinfettante, mi sono disinfettato, però le ho fatto questa osservazione, ho detto, no, prendo la mia perché quella lì può averla toccata a chiunque. Ma è una bella osservazione, guardi, non ci avevo pensato, ha fatto bene a dirmelo, dice adesso ognuno si deve portare la sua di penna, non fa darla a tanta gente. Sì, ma l'osservazione era giusta, Gianni, l'osservazione che hai fatto era giusta, però ripeto, lui poteva anche obbligarti ad esempio alle poste, tanto per fare un esempio, tu fai un'operazione allo sportello delle poste, no? E c'è la penna che addirittura ti fanno firmare, ad esempio io quando vado a prendere la pensione, ti fanno firmare e poi devi schiacciare un puntino con la penna stessa sulla lettera accetta, capito? E appare sul computer poi questa pressione che faccio su quella lettera lì. Io la potrei fare anche con un'altra penna? No, assolutamente no. Perché? Perché quella penna fa parte di quella macchinetta, sicché si è obbligato per forza a usare quella penna. E quanti pensionati vanno a ritirarsi la pensione e firmano con quella penna? Milioni di pensionati. Facciamo entrare l'amico che ha detto della penna digitale, avanti. Magari loro Non è una cosa che l'ho pensato, sì, l'ho usata mille volte quell'affare lì, anche quando vado a ritirare i pacchi, le raccomandate, ti fanno firmare in quella specie di tablet che c'hanno e ti fanno mettere, cliccare sul tasto verde, sì lo so. Però la firma digitale, quella lì, come ce l'ha anche il postino adesso, c'erano un po' tutti, queste cose digitali ce l'hanno tutti, non è una cosa nuova, è una cosa che usa. Un attimino. Adesso oramai il digitale, cioè guarda, se non ci fosse stato il digitale come avrebbero fatto i ragazzi della scuola a studiare, a dare gli esami, eccetera, eccetera. Meno male che c'è, è una cosa, diciamo, è una benedizione, perché se no non avrebbero potuto fare nulla, e tutti i documenti che devi fare, 730, domande, questo e quell'altro, tutto quanto via digitale devi fare. Facciamo entrare l'amico, dai, che sta aspettando. Avanti il break, chi era? Io sono al telefono, scusate, riprendete pure. Chiamiamo Marco, che macchina? Sì, Marco, riprendi? Ma era lui che ha detto firma digitale, non mi sembrava però. Aspetta, parlando. Ma con chi sei? Con qualche bella gnocca? E vabbè, cercatela lì, in mezzo a tutta questa gente non ci sarà una che va bene per te. Ma c'è il Covid-19, bisogna stare attenti, peggio della DS adesso. Dillo a me, io sto attento con le penne, ma non con le donne. Ma c'è te la sua ragazza, Plata Monaca, o Gianni, ormai è morta, purtroppo è così. E c'è Peppina pure, ahimè. E allora, non è la tua ragazza quella, lo dicevi tu. Ah, così. Santiago Treno stai arrivando, Marco. E la radio, adesso già capisco quello che dici. Va bene, dai, si scherza naturalmente. Purtroppo, Gianni, in tutte le cose ci sono delle regole, ma ci sono anche delle contraddizioni plausibili. Per cui, però, purtroppo la legge è quella che comanda e tu devi fare come dice la legge, nonostante che magari possa sembrare una banalità o una cosa addirittura assurda, quel sistema lì di lavoro o di qualsiasi altro genere di approccio. Per cui devi fare per forza così, come dice la legge. Vai, Robby. Però non era Marco quello che stava parlando, che ha detto della cosa firma elettronica, era Santiago 9 abbondante e poi deve essere se n'è andato. Avanti, chi è? Ha fatto un'osservazione, non avete sentito quello che ha detto firma digitale, a meno che non era Antonello Barracuda. No, ho proprio sentito io, Anche se la voce non mi sembrava lui, però il segnale era più o meno suo, più di 9 era. Fabio, quello vicino a me, arriva più forte ultimamente, non credo che sia lui, però era un segnale oltre le 9, che ha detto, poi avete fatto un passaggio un po' lunghetto, lui, ho sentito, ha dato due colpi di portante quando parlavate, con un bip sotto. Comunque, non mi avete detto niente, è andata l'antenna, io adesso vi ho detto da ieri, da Mattia, da ieri, che ho l'originale già, per cui non è che ci sia differenza, sì, magari un puntino così, un punto di più di coso, da quella autocostruita a quella originale non è che ci sia questa grande differenza, Gianni, io adesso ho la stessa antenna che hai tu, uguale originale. Sì, 9.30 qua, te lo dico subito, 9.30 stai arrivando. Ok, sì, sta andando bene, questo sì, lo so, ma anche prima andava bene, forse un po' meno, era prima di segnale, ma non è che... Io ho visto il vostro segnale, che uno o due punti ha aumentato tutti i segnali, ma... Tutto sommato non è che ci sia stata questa grande differenza, anche perché, ripeto, quella che avevo costruito, avevo preso le misure proprio da questa originale, ecco com'è, pertanto evidentemente anche quell'altra è abbastanza valida, tutto lì ho già. Avanti, Natalia. Sta arrivando a 9 più qua, sul più 6. Sono rientrato. Mica, una cosa te lo voglio dire a proposito. Dimmi, dai, che poi devo uscire, dimmi. Una cosa però, c'ha l'acqua, quella fare quel rosmetro che ti ho detto è perfetto, l'ho provato, non devi regolare niente, quello lì deve arrivare solo al fondo scala per il coso, per la, quando stai facendo la potenza, è perfetto, proprio giustissimo, l'ho provato a fianco al K, meglio di questo ZG 10.000 volte, non serve a niente per fare le bande, io pensavo fosse per le bande, quello lì serve solo per la potenza quando devi schiacciare, ti dà la potenza direttamente quello lì, ed è perfetto, guarda, c'ha una scala perfettissima. Non mi interessa la potenza, volevo una le stazionarie, devo controllare le stazionarie sul tetto, mi porto la radio su, capito, per non stare sali e scendi, le stazionarie giuste sono, come metti, tu schiacci la portante e cosa fai, fai il fondo scala dei watt, cosa fai? Sì, vai al fondo scala dei watt, te lo dai immediata la lettura, perfetta, proprio ti sto dicendo come il K, 1 e 1 c'ho di stazionarie io, quello è proprio, è molto larga come scala, questo ho fatto bene a non darlo a una persona perché mi ha detto buscamene uno e gli ho dato lo ZG, questo gli fa 10 a 0, l'hai visto com'è aperto, l'ho guardato su internet, è molto molto conosciuto a quel marchio lì, non conosciuto, apprezzata, io non la conoscevo, però ti posso dire, l'hai visto dentro com'è costruito, è una cosa, considerando le dimensioni, è fatto veramente bene. Ti ho detto che il giorno che è venuto Antonio a prendersi del materiale mio, gliel'ho regalato quello, è funzionante, però c'ha i vetrini rotti, ha detto già se li metteva lui, anche perché c'ha l'adattatore impedenza, ma visto che c'ha i due pulsanti, quello fa l'adattatore impedenza anche nel caso usi qualche cavo che non sia 50 ohm, capito? Ok, io già mi ho saltato l'antenna sull'altro lato, il segnale mio è sempre uguale. Guarda a vedere. Dimmi di sì perché sennò mi incazzo. Non ho visto le testate, se ne ho pensato un po'. Ah, sto scherzando. Non ho finito ancora, devo tirare lassù altre 2 metri, 2 o 4, adesso vediamo se ho pali buoni. Ne ho, però non voglio rischiare molto, perché cavolo ce n'è in abbondanza. Praticamente eliminato circa 22 metri di cavo, Giulio, 22 metri, perché dalla centralina del commutatore andava lì, a dove all'altro angolo sono 22 metri. 22 metri di cavo eliminato. E adesso sono praticamente col cavo diretto sulla centralina, quindi circa 5-6 metri di cavo, a parte quello di discesa che è unico per tutte le antenne. Poi mi sono collegato lì. E devo finire. Avevo uno rapporto a uno, nel senso zero di stazionare, come ho tolto la spirale per pulirla mi sono salite a 1 e 1, però domani le faccio scendere a 0, perché rimetto la spirale com'era, deve essere che l'ho spostata di qualche millimetro e sono salite, ma non sono niente, uno rapporto a uno, vai, modulate neanche 1 e 2, però non voglio che si muova, domani la finisco. Avanti Marco, stai rientrando a Sassari quindi? Chi è questo? Non so chi è. Santiago 9 è questo. Guarda che 1 e 1 è il massimo della taratura, per cui non la devi mettere a 1, no, assolutamente, l'antenna è tarata a 1 e 1 e così deve essere per poter emanare il 100% della radiofrequenza. Per cui non devi portarla a 1, chi te l'ha detto che devi portarla? A 1 e 1, non esiste antenna che non abbia 1 e 1 o meno di stazionarie. Questo anche per le antenne riceventi, parlo antenne TV e balle varie, anche quelli hanno il ROS, questo è scontatissimo, guarda, te lo posso assicurare. Sì, io, ma infatti è una mia fissazione, siccome prima non si muoveva neanche, adesso si muove, va praticamente 1 a 1, no, 1 rapporta 1 con un accordatore della cable, con la T230. Però prima non si muove, la voglio rimettere così, se poi non ci riesco la lascio stare, non ce n'è stazionaria assolutamente, capite? La lascio stare così, dai. Vabbè. Va bene, avevo rilanciato per Marco solo che c'era un portante a Santiago 9, boh, con dei rumori sotto, gracchiare, non lo so chi sia. Marco, stai rientrando? Oh, perché c'è gente in movimento, e vabbè, io non sono andato a nessuna parte, non devo andare a nessuna parte. C'ho mio fratello, mia sorella, andare al Ghera, andare a Portolo, se non vado da nessuna parte, non sto a casa, si sta così bene, c'ho tante cosettine che sto facendo, ho completato anche la parte della scrivania. Adesso pian pianino, mia moglie sta mettendo a posto la roba estiva con quella invernale e io adesso adesso mi lascio, mi faccio due cosettine qua e poi mi lascio un pochino col cane, vai. Un piacere avervi ascoltato, buon proseguo a tutti, ci sentiamo più tardi se coincide, se no a domani. Vai Gianni. Guardati WhatsApp che c'è il segnale. Vabbè, claro, dai, noi siamo qua. Buona passeggiata, quando la fai anch'io devo scendere prima oggi perché dopo tanto non l'ho portato, dai, ero troppo stanco, non ce la facevo. Vabbè, dai, guardati WhatsApp che ti ho mandato il segnale come arrivi. Grazie, a dopo signori. Ok, ciao Clara, a dopo. Bene, bene. Facciamo venire avanti a Natalino, avanti a Natalino, salutare a Claudio. Ciao Fla, buona passeggiata con Filippo. Alle prossime, dai. Riprendi già. Claudio e Natalino mi arrivano con lo stesso segnale a me. Tutte e due quasi 9.30. Sto Giulio, che ti ho mandato il filmino. Sì, Gianni, ho visto il segnale, sono praticamente a fondo scala, tutto sommato, siamo oltre il più, per cui siamo lì. Bene, bene, bene, e vabbè, comunque, sì, ma quello che conta, ogni modo, è capirsi, perché a me mi va bene anche Santiago 1 e che senta la radio. Io, ad esempio, prendo l'esempio anche da Franco California. Franco California, qua, quando modula da campagna, mi arriva Santiago 4,5, 5, però ha una radio formidabile, perché arriva fortissimo. Arriva, solo che sta sempre modificando anche lui e a volte magari arriva più basso, però ripeto, a differenza di altri che possono arrivare anche Santiago 5 senza radio, non ha senso, non ha senso avere segnale se non c'è radio. Vai Roberto. Tenete conto dove siamo noi, però dove siete voi è molto importante anche quello, ne abbiamo parlato mille volte. Però va bene, l'importante è che vada bene, che ci sentiamo tutti. Vai Robby. Ciao Sara, buon giro col cane. Anche io adesso mi allontano 5 minuti, devo dire roba a mia figlia, però c'è questo qua che sta cercando di entrare, diamogli un attimino di bianco, avanti se vuoi entrare. Questo è Antonello, ciao Antonello, un altro ce n'era però Santiago 9 qua, avanti che stavo uscendo male. Ecco che antenna sì. Non è Antonello che è 9.30, no? Cos'è già? Avanti Tonino! 9.30 qua! Antonello ti arriva 9.30! Non è Antonello detto che arriva con un segnale 9.30, è qua vicino, dai! Io ho capito già chi è. Antonello è questo che ha parlato, che ha fatto ciucucciù che è a fianco a me della 9.20, già lo conosco anche se era molto basso, probabilmente è dalla sorella. Avanti Antonello. No, sono Antonello, ciao a tutti. Tonino, scusa, mi sembrava Antonello, come non detto allora. Ok, no, ma ce n'era un altro 9 sotto, quando parlavate voi, stava cercando di entrare, però era un po' disturbato. Avanti questo che chiamava prima. Dai, io mi assento un attimino, continuate voi, dai. Avvivi, Tonino, avanti, dai, buonasera, buonasera, buona starter. Buonasera. Ciao Bucciaccio, intanto Giotto me la sono mangiato, ciao Giulietto. E già ingrassi tu. Ingrasso mio a volte qui, tu ti chiedi, lo grasso noi. Ma io non le mangio gelati, me li sbrano, solo. Tu già mangi la torta, Giulio, mutali tu. Ciao Tonini, sentito, lui se lo sbrana gelato, invece io me lo ciuccio. Oh yeah. Ti mando avanti Natalino per salutarti Tonino, vai Tonino, cioè vai Natali per Tonino. Ciao Tonino, buonasera. Gianni ce lo sbrava vero il gelato, nuovo Funendi. Ciao Natali. Ma veramente io so che Gianni è un aspirapolvere con i gelati. È vero, quello sì. Ho preso da mio padre li mangiava così lo stesso. Vabbè. È un autospurgo, Gianni, è un autospurgo, No, non è un autospurgo, calma, un aspirapolvere. Io con le labbra lo mordo con le labbra e me ne mangio metà. Quando l'altro sta facendo l'altro gelato, io ho già finito il gelato. Certo che te le fai compagnia, con quella capassona, Io metto la compagnia, ma che ti mangi il gelato, cosa c'entra? Io lo gusto solo così il gelato, devo mangiare così, se no non lo gusto. Quindi per gustarlo deve essere rigorosamente cioccolato, panna montata e una spruzzatina di cacao. Senti, municidiato sì. No, io mi prendo oggetti confezionati, cornetto, pinguino, insomma. quelle altre con cioccolato sopra, eccetera, insomma. Me le metto in freezer e poi intanto mi scelgo quale mi piace e poi dopo la mangio. Uno al giorno, poi mi dico ritorno. E fai bene, e fai bene. Finito là il mobile, Tony? Finito, dimenticato, lo devo fare un altro dopodomani. Tu ti devi fare falegname. No, non mi piace falegname, io faccio il fai da te. Ho preso troppo questa attrezzatura che ho, ce ne ho un bel. Mi basta quello lì, non può fare già venuta, perché non so neanche più dove mettermela. Tony, come mi senti lì di radio? Come sto andando? Sei ottimo, 5 perfetto. KK. Vabbè, gli ho messo la capsula nuova a questo microfono, ho detto, chissà che ce la faccia a migliorarlo. Natali, gli ho messo la capsula di quelle verdi. Infatti sta andando bene, ma voi mi dovete spiegare quali sono quelle queste capsule verdi. Cazzo, così la cambiavo a questo. E cosa c'è da spiegarti? Allora, tu dovrai fare le saldature della capsula che sia marrone che verde. Quella verde è quella di citofono e roba del genere, ed è quella che pompa forte. L'altra invece è più normale, diciamo che non pompa un cavolo, come quella che c'avevo io, marrone. E dove si trovano queste capsule? Pizzina. Nelle cabine telefoniche, come faceva qualcuno negli anni passati, tanti anni fa, andavano nelle cabine telefoniche. No, Natali, se vuoi qualche capsula, guarda, io ho dei telefoni di quelli a tastiera, te li posso dare io, non c'è problema. Ecco perché devo telefonare, non mi sentivano. Chi sei tu, Giulio, che mi cambiavi le capsule? No, io non ne ho mai cambiato capsule. Io ce l'ho sempre avuta ceramica la capsula, per cui non ne avevo bisogno. Però ho diversi telefoni che hanno dismesso da un istituto di vecchi, di anziani, anche quello, mi tornando al discorso di poc'anzi, o Gianni, anche quelli hanno voluto cambiare i NAS, hanno fatto cambiare anche i telefoni. E dunque già lo sai, già puoi capire che me ne ha dati, no? Ce li ho, ne ho alcuni, ne avrò 4-5 di questi telefoni e dunque posso sacrificare la cornetta, non c'è problema. Anzi, addirittura una volta si utilizzava al baracchino mettere direttamente la cornetta, ti ricordi già? Ma era quella dei carabinieri, quella noi ce l'avevamo al CISO, l'avevamo fatta, ce l'avevamo per l'ambulanza, ce l'avevamo a cornetta, e c'è ancora sicuramente al CISO, se vado c'è ancora, era nera, quella che usavano i carabinieri. Gianni, tempo dietro, qualche cabina telefonica, mancavano i telefoni, ora sappiamo il perché, a chi cercare. No, io non ne ho mai toccato. Io la verità avevo comprato questi telefoni, li avevo comprati al fiducchio. Li avevo pagati 5 euro l'uno, mi pare, una cosa del genere, o 3 euro. E me ne avevo comprati 2 o 3, ho tolto le capsule e poi ce le ho buttate. E le capsule mi sono rimaste nella scatola dove tengo tutte le cose, i ricambi, eccetera, eccetera. Ho trovato queste capsule, quello che non ho trovato è di quella vitina a capo del microfono che mi è caduta in terra, non sono riuscito a beccare in nessuna maniera. Una calamita grossa. Tony, è già difficile a prenderla con la mano quella roba lì. Poi bisogna prendere le pinzette, piccola, proprio quella la più piccola che c'è. Io ho 4 telefoni o 5 mi sembra, di quelle che si usano per cantare. Uno di questi giorni ne voglio mettere una al baracchino e vediamo un po' come esco. Vanno bene, so che funzionano benissimo perché qualcuno tempo addietro l'aveva fatta questa modifica e andava bene. Addirittura comprate di quelle dai cinesi, dai senegalesi, cinesi, eccetera. Ma quelli che ho io addirittura ne ho una che costa roba di 600 euro, che è un microfono adatto per cantare, anzi ne ho due addirittura di quelli. Uno ha i toni un po' più alti e l'altro ha i toni un pochino più bassi e costano intorno ai 600 euro questi microfoni. Me ne avevano dati uno mio fratello e uno è anche di mia figlia, per cui ce li ho tutti e quattro io, non li stanno più utilizzando. Avanti, Tony. Cappa. No, io la gente, capsule ceramica nulla, non c'è niente perché è telefoni, anche le cabine telefoni sono ormai non troppo niente. Se mai devo telefonare, non mi sentivo, non mi sentivo, pronto, io, a ver, mi sento, no, sono Torino, e così mancava la capsa, continuo a rapidificarmi. Ma mi va bene questo, il microfono che c'ho normale, dai. Sì, ma in quegli anni passati tanta gente faceva quella cosa, gli andava e se ne recuperava le cabine telefoniche, disgraziati, delinquenti quindi erano, perché non è possibile che si possa fare una cosa del genere, per magari per cosa? Per una stupidaggine, perché tutto sommato costa una fesseria, costa. Io mi ricordo quando facevo i microfoni in legno, li compravo io le capsule da Fusaro da 600 ohm ed è costato una miseria, ma veramente una miseria, e ne ho comprato tante. Va bene, pazienza, dai, comunque è così. Avanti Natalie. Oppure una ceramica, trovare una ceramica per metterla qua, che ci sia però. Le piccole vesti, a Fusaro le vendono, Natalie, ci sono a Fusaro. Bisogna informarsi, a vedere, bisogna andare a vedere se ne hanno. E invece oggi lo sai io cosa ho trovato? In una